succede che alla seconda appuntamento di quello che è il calendario delle domeniche ciclabili, ancora strade chiuse al traffico e possibilità di pedalare in totale sicurezza, un percorso ancora adatto alle famiglie, alle persone con disabilità, a persone che non sono abituate a uscire in bici e fare tanti chilometri. Sono 24 chilometri, quindi circa un'ora e mezza di bicicletta, un anello che parte da San Giovanni in Persiceto, aperta campagna tra argini, cavedagni, campi, molto verde perché c'è stata appunto la pioggia, ha reso la campagna molto verde. Sotto il grande cielo della pianura si ritorna dalla ciclovia del sole e si ritorna a San Giovanni in Persiceto, dove ci saranno stand per mangiare, bere, stare insieme, e l'inaugurazione del Bed & Bike. L'obiettivo è passare da un solo bike day, che era quello di Val di Zena, a un calendario di domeniche ciclabili. Pianura, il primo in pianura, poi avremo l'Appennino con i tre laghi e poi avremo l'ultimo autodromo di Imola e quella che era la ciclovia del Santerno, che ovviamente ha avuto dei problemi che dovremo rimodulare. Quindi quattro appuntamenti nei quattro territori che noi riteniamo paesaggisticamente più importanti, per poi aumentare di anno in anno. Per chi parte da Bologna sono previste le partenze, giusto? Sì, sono previste partenze per chi parte da Bologna, ovviamente per chi non è autonomo, che potrà partire, chi vuole partire in bici direttamente da Bologna, alle 8 l'appuntamento a Porta Saffi con una carovana scortata da Salve Ciclisti, e invece per chi vuole caricare la bici sul treno, come ad esempio farò io, alle 9 in stazione centrale per prendere il biglietto e partire con il treno delle 9.23. Se arriva alla stazione di San Giovanni Persiceto, abbiamo voluto appositamente che tutte le domeniche ciclabili fossero vicino a una stazione per permettere a tutti di arrivarci anche con il treno. Il percorso sono 24 chilometri che si snodano lungo la campagna di San Giovanni Persiceto e Sala Bolognese. Si parte dall'ex Arti Meccaniche, che oggi è il principale hub turistico del cicloturismo della pianura. Si passerà da Lorenzatico e Zenerigolo, due piccoli paesini. Si attraverserà, anzi si scavalcherà il Samoggia, e poi, seguendo l'argine, un piccolo tratto sterrato di 4 chilometri sul comune di Sala Bolognese, si arriverà a Sala Bolognese con una ciclabile per poi innestarsi sulla ciclovia del Sole e tornare a San Giovanni Persiceto. Tutto questo un'ora e mezza circa, tra un'ora e mezza di biciclettata, quindi aperta tutta e completamente piatta, quindi senza dislivello. Perché è importante promuovere questi eventi? Ma noi facciamo promozione del territorio come territorio turistico e crediamo che i primi fruitori e ambasciatori del territorio siano gli stessi abitanti della città metropolitana. Abbiamo dei paesaggi bellissimi a portata di bicicletta in questo caso, e vogliamo che vengano scoperti. Per noi questo significa turismo responsabile, significa turismo a chilometro zero, significa scoprire un territorio che poi in un secondo momento può essere fruito da chi l'ha fruito nelle domeniche, oppure raccontato ad amici, visitatori e persone che vengono a trovare, ci vengono a trovare, che noi possiamo portare in un percorso e nei percorsi che abbiamo scoperto. E l'evento, per partecipare all'evento bisogna iscriversi, giusto? È obbligatoria l'iscrizione, anche se è gratuita ai fini di sicurezza e regolamento. Si trova su Extrabo, domeniche ciclabili per tutti. È possibile iscriversi, è possibile anche noleggiare la bici per chi non ce l'ha. I primi 100 iscritti avevano una maglia in omaggio, ma ormai abbiamo superato le centinaia di iscrizioni, per cui aspettiamo comunque. La maglia si può acquistare in loco e ci sarà da mangiare, da bere, insomma ci sarà una bella giornata. Stagione turistica, quali sono le aspettative? Sicuramente non è cominciata nel migliore dei modi. Abbiamo dovuto, per fortuna abbiamo un modello molto resiliente, molto adattabile alle crisi, costruito anche con la pandemia, che ha saputo reagire immediatamente a quello che è un'emergenza climatica e che quindi ha fatto anche dei danni di immagine, di comunicazione. Abbiamo ripristinato quello che secondo noi è la realtà delle cose, quindi sappiamo dire ai nostri turisti, quelli che erano già a Bologna, quelli che stanno arrivando, dove possono andare in sicurezza, dove invece in questo momento non si può andare. Abbiamo ripristinato i principali cammini, gli alberghi tornano a riempirsi, abbiamo visto già durante il ponte, siamo ai livelli del 2019, per cui siamo perfettamente in linea con le aspettative. Le città d'arte sono salve, nostra fortuna, e abbiamo bisogno di promuoverle, di tornare alla normalità. Abbiamo tanti eventi, Repubblica delle Idee, il concerto di Vasco Rossi, i mondiali di bike a Monghidoro, le domeniche ciclabili, siamo tornati a pieno regime. Quindi anche la stagione turistica dell'Appennino potrebbe salvarsi? Sì, chiaramente l'Appennino ha delle zone che in questo momento sono fortemente compromesse. Non ci sono impedimenti sulle direttrici principali, quindi è possibile arrivare in tutto l'Appennino, e noi siamo riusciti a salvare tutto il cartellone di Bologna Estate, il Festival del Paesaggio, gli appuntamenti sportivi. Questo è il messaggio che deve passare. La vita sta tornando, ovviamente c'è un problema sulle strade secondarie e quindi sappiamo che c'è un disagio per i residenti, ma questo non ci impedisce di promuovere il territorio e di fare sì che si torni alla normalità il prima possibile.